I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Una volta tanto la sfida economica tra Italia e Francia è stata vinta dall'Italia. Abituati infatti agli acquisizioni da parte francese di gruppi italiani, qualcuno le ha chiamate vere e proprie scorribande nel nostro paese, vale la pena segnalare come uno dei gioielli della cantieristica mondiale, l'italianissima Fincantieri, si è riuscita ieri a trovare un accordo per l'acquisizione degli importantissimi cantieri navali francesi STX France, che hanno sede a Saint-Nazaire. La quota di maggioranza dei cantieri francesi, messa in vendita dal Tribunale fallimentare di Seul perché apparteneva a un gruppo sudcoreano, era stata infatti assegnata proprio alla Fincantieri in una guerra dove c'erano altri tre candidati, il gruppo asiatico Genting, il gruppo olandese Damen e un fondo di investimento anglo-cinese. Siccome però Saint-Nazaire costruisce anche navi militari, la Francia voleva mantenere una presa parziale sul gruppo. L'accordo di ieri va in questa direzione: gli italiani avranno il 48,7%, lo Stato francese mantiene una minoranza di blocco al 33%, ma il controllo operativo del gruppo è garantito a Fincantieri anche dal fatto che vi sia un fondo italiano che ha un'altra quota del 10%. E quindi, senza voler essere troppo nazionalistici, una volta tanto Italia-Francia 1-0. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Camion contro la folla nel centro di Stoccolma, almeno due morti, il premier, attacco terroristico. Ci risiamo ogni volta che la comunità internazionale sembra raccogliersi intorno a un tema di interesse comune, ovvero il terrorismo, c'è qualcosa che fa saltare gli equilibri e fa saltare, purtroppo, anche le bombe. Probabilmente l'attacco di Trump, l'attacco degli Stati Uniti contro la Siria, la ritorsione per l'attacco con le armi chimiche contro le popolazioni, potrebbe essere la base di questo nuovo attentato, ma il problema è un altro. Si continua a fare politica estera secondo gli interessi nazionali, secondo gli interessi particolaristi. Lo stesso attacco degli Stati Uniti contro la Siria lascia un po' perplessi, visto che lanciare 59 missili Tomahawk, che costano più di 15 milioni di dollari ciascuno, contro una base militare, in particolare una pista, non sembra dare né una risposta militare né politica a una tensione che ormai da anni circonda quell'area del mondo. In realtà sembra un po' una scelta ad uso e consumo degli Stati Uniti, cioè far vedere che la Casa Bianca e il presidente Trump non ha nessuna sudditanza né timore di confrontarsi con la Russia. Ma quanto è produttiva questa politica? L'Europa da una parte, gli Stati Uniti dall'altra, la Russia per conto suo, come sempre, e la variabile indipendente che si chiama Cina. Il disordine mondiale continua, purtroppo, sulla pelle della gente, è tutto, mentre l'economia dà ancora segni di stanchezza più che di ripresa. Il mondo ha bisogno di una cabina di regia che pensi alla gente, che pensi al lavoro e che pensi soprattutto a dare un po' di equilibrio a una crescita mondiale che è soltanto, probabilmente, una crescita delle diseguaglianze. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.